e allo scrittore più ancora che al pittore, per ottenere volume e consistenza, generalità, realtà letteraria. Occorrono molti esseri per un solo sentimento, come all'altro aver visto molte chiese per dipingerne una. E infatti, se l'arte è lunga e la vita è breve, si può dire, in compenso, che se l'ispirazione è breve, i sentimenti che essa deve dipingere non sono molto più lunghi. Sono le nostre passioni ad abbozzare i nostri libri, mentre la calma fra l'una e l'altra li scrive. Quando rinasce, quando possiamo riprendere il lavoro, la donna che era in posa davanti a noi per un sentimento non è già più in grado di farcelo provare. Bisogna continuare a dipingerlo guardando a un'altra. E se questo significa tradire l'essere, dal punto di vista letterario, grazie alla similitudine dei nostri sentimenti, che fa sì che un'opera sia al tempo stesso il ricordo dei nostri amori passati e la profezia dei nostri nuovi amori, queste sostituzioni non comportano inconvenienti di rilievo. È questa una delle cause della vanità degli studi che pretendono di indovinare di chi parli un autore. Infatti, un'opera, anche di confessione diretta, intercala quantomeno fra loro più episodi della vita dell'autore, quelli anteriori che l'hanno ispirata e quelli posteriori che non le assomigliano di meno. Gli amori successivi, essendo ricalcati nelle loro particolarità, sui precedenti. All'essere che più abbiamo amato, non siamo infatti fedeli quanto lo siamo a noi stessi, e prima o poi lo dimentichiamo per potere, giacché è uno dei tratti che ci fanno noi stessi, ricominciare ad amare. Tutt'al più, quella che abbiamo tanto amata avrà aggiunto a questo amore una forma particolare per cui le saremo fedeli anche nell'infedeltà. Avremo bisogno, con la donna successiva, delle stesse passeggiate mattutine, o di riaccompagnarla allo stesso modo la sera, o di darle 100 volte troppo denaro. È curiosa questa circolazione del denaro che diamo a donne, che per questo ci rendono infelici, cioè ci consentono di scrivere dei libri. Si può quasi dire che le opere, come nei pozzi artesiani, salgono tanto più in alto quanto più profondamente la sofferenza ha scavato il cuore. Tali sostituzioni aggiungono all'opera qualcosa di disinteressato, di più generale, che è anche un'austera lezione sul fatto che non è agli esseri che dobbiamo attaccarci, che non sono gli esseri a esistere realmente e dunque a essere suscettibili d'espressione, bensì le idee. E bisogna anche affrettarsi e non perdere tempo finché li si ha a disposizione quei modelli, perché chi posa per la felicità non ha in genere molte sedute da offrire e nemmeno, ahimè, perché passa anche questo così velocemente, chi posa per il dolore. D'altronde, anche quando non ci fornisce, rivelandocela, la materia della nostra opera, quest'ultimo ci è utile, incitandoci ad essa. L'immaginazione, il pensiero possono essere macchine in sé meravigliose, ma inerti. La sofferenza, allora, le mette in moto. E gli esseri che posano per il dolore ci concedono sedute così frequenti, nell'atelier che frequentiamo solo in questi periodi, che si trova all'interno di noi stessi. Sono questi periodi come un'immagine della nostra vita, con i suoi vari dolori. Anch'essi, infatti, ne contengono diversi e uno nuovo proprio nel momento che si credeva di calma. Nuovo in tutti i sensi della parola. Forse perché le situazioni impreviste ci costringono a metterci più profondamente in contatto con noi stessi, i dilemmi dolorosi che l'amore ci pone di continuo ci istruiscono, ci scoprono via via la materia di cui siamo fatti. Così, quando Françoise, vedendo Albertine in casa nostra infilarsi come un cane in tutte le porte aperte, mettere disordine dappertutto, rovinarmi, darmi tanti dispiaceri, mi diceva: perché a quel tempo avevo già fatto qualche articolo e qualche traduzione. Ah, se il signore, invece di quella ragazza che gli fa perdere tanto tempo, avesse preso per segretario un ragazzo, a modo che avrebbe potuto tenergli in ordine tutta la sua carteria. Avevo torto, forse, a trovare sagge le sue parole. Facendomi perdere tempo, facendomi soffrire, Albertine mi era stata forse più utile, anche dal punto di vista letterario, di un segretario che avesse tenuto in ordine la mia carteria. Ma è comunque vero che quando un essere è tanto mal conformato, e forse in natura a essere tale è l'uomo, da non poter amare senza soffrire e da aver bisogno di soffrire per scoprire delle verità, la sua vita finisce con l'essere ben faticosa. Gli anni felici sono anni perduti. Si aspetta una sofferenza per lavorare. L'idea della sofferenza preliminare si associa a quella del lavoro, si ha paura di ogni nuova opera, al pensiero dei dolori che bisognerà sopportare prima di immaginarla. E poiché ci si rende conto che la sofferenza è quanto di meglio si possa incontrare nella vita, si pensa senza spavento, quasi come a una liberazione, alla morte. Eppure, se questo un po' mi ripugnava, bisognava anche pensare che molto spesso, anziché giocare con la vita, approfittare degli altri per i libri, abbiamo fatto esattamente il contrario. Il caso di Werther, così nobile, non era, ahimè, il mio. Senza credere per un solo istante all'amore di Albertine, 20 volte avevo voluto uccidermi per lei. Mi ero rovinato, avevo distrutto per lei la mia salute. Quando si tratta di scrivere, si è scrupolosi, si guarda per il sottile, si respinge tutto ciò che non è verità. Ma finché si tratta solo della vita, ci si rovina, ci si ammala, ci si uccide per delle menzogne. È vero che solo dalla ganga di queste menzogne si può estrarre, se è passata l'età d'esser poeti, un po' di verità. I dolori sono servitori oscuri, detestati, contro i quali si lotta, sotto il cui dominio si cade ogni giorno di più, servitori atroci, insostituibili, che ci portano per vie sotterranee alla verità e alla morte. Felice chi ha incontrato quella prima di questa, chi ha sentito suonare, per vicina che l'una debba essere all'altra, l'ora della verità prima dell'ora della morte. Della mia vita passata capii anche come ogni minimo episodio avesse concorso a darmi la lezione di idealismo che oggi avrei messo a profitto. I miei incontri con il signor di Charlieu, per esempio, non mi avevano forse consentito, prima ancora che la sua germanofilia mi desse la medesima lezione, e ancor meglio del mio amore per Madame de Germain o per Albertine, dell'amore di Saint-Leu per Rachel, di capire quanto la materia sia indifferente e come il pensiero possa metterci di tutto. Verità che il fenomeno, così mal compreso, così inutilmente biasimato, dell'inversione sessuale amplifica ancor più di quello già tanto istruttivo dell'amore. Questo ci mostra come la bellezza fugga dalla donna che non amiamo più per andare a risiedere nel viso che altri troverebbero bruttissimo, che a noi stessi sarebbe potuto, potrà un giorno, dispiacere. Ma colpisce ancora di più vederla emigrare, ottenendo tutti gli omaggi d'un gran signore che s'affretta a lasciare una bella principessa sotto il berretto d'un controllore degli omnibus. Il mio stupore, ogni volta che avevo rivisto ai Champs-Élysées per strada, sulla spiaggia, il viso di Gilbert, di Madame de Germain, di Albertine, non provava forse come il prolungamento di un ricordo avvenga solo in una direzione, che diverge dall'impressione con cui esso ha coinciso all'inizio e da cui vie più s'allontana. Lo scrittore non si deve offendere se l'invertito dà alle sue eroine un volto maschile. Solo questa particolarità un po' aberrante consente all'invertito di attribuire poi a quel che legge tutta la sua generalità. Racine, per darle poi tutto il suo valore universale, era stato costretto a fare per un istante della Fedra antica una giansenista. Allo stesso modo, se Charlus non avesse dato all'infedele su cui piange Musset nella Nuit d'Octobre o nel Souvenir il viso di Morel, non avrebbe né pianto né capito, già che solo per questa via angusta e traversa egli aveva accesso alle verità dell'amore. Non è che per un'abitudine presa dal linguaggio insincero delle prefazioni e delle dediche che lo scrittore dice «il mio lettore». E in realtà ogni lettore, quando legge, è il lettore di se stesso. L'opera è solo una sorta di strumento ottico che lo scrittore offre al lettore per consentirgli di scoprire ciò che, forse, senza il libro, non avrebbe visto in se stesso: il riconoscimento dentro di sé, da parte del lettore, di ciò che il libro dice è la prova della sua verità, e viceversa, almeno in una certa misura, già che spesso la differenza fra i due testi può essere imputata non all'autore, ma al lettore. Inoltre, il libro può essere troppo erudito, troppo oscuro per il lettore ingenuo e non offrirgli così che una lente torbida attraverso la quale non potrà leggere. Ma altre particolarità possono, come l'inversione, far sì che il lettore abbia bisogno di leggere in un certo modo per leggere bene. L'autore non se ne deve offendere, ma al contrario, lasciare al lettore la più grande libertà dicendogli: guardate voi stesso, se vedete meglio con quella lente, con questa, con quest'altra. Se mi ero sempre tanto interessato ai sogni che si fanno durante il sonno, non era forse perché, supplendo alla durata con la potenza, essi vi aiutano a capire meglio quanto vi sia di soggettivo, per esempio nell'amore, per il semplice fatto che riescono a farci entrare, come si direbbe volgarmente, una donna nel sangue, ma con una velocità prodigiosa tanto da farci amare appassionatamente, durante un sonno di pochi minuti, una donna brutta, cosa che nella vita reale richiederebbe anni di abitudine, di intima convivenza, quasi che fossero, inventate da qualche medico prodigioso, iniezioni endovenose d'amore, così come possono esserlo anche di sofferenza. Con la stessa velocità, la suggestione amorosa che ci è stata inculcata si dilegua e qualche volta non solo l'amante notturna smette per noi d'essere tale, essendo ridiventata la ben nota bruttona, ma si dissolve anche qualcosa di più prezioso. Tutto un quadro incantevole di sentimenti, di tenerezza, di voluttà, di rimpianti vagamente smorzati, tutto un imbarco per Citera della passione di cui vorremmo annotare, per quando saremo svegli, le sfumature deliziosamente veridiche, ma che si cancella come un dipinto troppo sbiadito che non si può restaurare. Di più, se il sogno m'aveva affascinato, era anche per la sua formidabile sfida con il tempo. Non avevo visto tante volte, in una notte, in un minuto d'una notte, tempi lontanissimi, relegati a distanze immense dove non riusciamo a distinguere più nulla dei sentimenti provati allora, precipitarsi a tutta velocità su di noi, abbagliandoci con la loro luce come se fossero aerei giganteschi e non le pallide stelle che credevamo, farci rivedere tutto ciò che avevano contenuto per noi, darci l'emozione, la sorpresa, la chiarezza della vicinanza immediata, per poi, al momento del risveglio, riprendere la distanza miracolosamente abolita, tanto da farci ravvisare in essi, a torto peraltro, uno dei modi per ritrovare il tempo perduto.